mette anche sui 160, figurati. Mentre l'altra, che adesso è in funzione, lo stesso è collegata ai ricevitori, ne serve tre contemporaneamente, quindi. E come tanto anche con quella posso trasmettere, però col carattere. Tutto lì. Dipende dall'orientamento, forse. Attenzione, Claudio. Ciao, ciao, stavo parlando già fuori, forse non l'hai sentito. Sì, no, anch'io ce l'ho quella, solo che non la uso per la 27, capito? Uso sempre la 90. Avanti, Sandro, buonasera. Ehi, capo, buonasera. Salutoni, saluto già fatto un po' dopo io, la parte mia negativa poterlo sentire, aspetta un po' di QRM. Claudio, dammi un rapporto di questa modulazione segnale, com'è? Buona, 5 la radio, buona segnale, il segnale è tuo, la radio 5, perfetto. Ok, perfetto. Allora, ascolta un attimino, tu che più o meno hai l'orecchio. Vediamo un po'. Ok. Troppo però passa leggermente, parlaci sopra, vediamo. Ok. Allora adesso la scarpa vediamo un attimino se va meglio. No, non si capisce niente, si sente solo il reverbero e che copre la tua modulazione. No, ma se il reverbero, come quando si è entrato, mettilo com'era e poi lo un pelino proprio sollevi. Allora aspetta un attimino, vediamo un po', ora, vediamo un po', così dovrebbe andare bene. No, troppo alto, c'è troppo reverbero, non è ecco, il reverbero ti porti dietro quello che dice, si mastica la modulazione, si capisce, abbassa. Mi sembra normale, diciamo, dai. Ecco, prego. Esatto, è stato break. Vabbè, serve proprio per fare quella regolazione, anch'io ce l'ho nella RAM 48. Infatti mi sono regolato, mi sono autoregolato con una colpa all'ascolta, capite? Ma va bene così, ottima modulazione, avanti perché. Ciao Gigi, lo senti Alessandro? Com'è questo ecco? Non so che cosa stia usando. Cosa stai usando? Per me già due regolazioni che l'ho fatto. Lui adesso ha messo quella regolazione che ripete la parola quando finisce di parlare, dice lui dice una parola e lui la ripete due o tre volte. È notato qua, non è l'eco, è tipo il magno, le senofe, no? Puoi mettere, ripete la parola e continua a ripetere quello che hai detto, e così sta facendo adesso, ma poco. Poi dovrebbe avere un pomello per l'eco che ti dà wow, wow, wow, quello lì, e poi c'è quello che ti dice la parola, tu dici Claudio e lui fa Claudio, Claudio, Claudio, e sta facendo così adesso. Non so cosa stai usando, io non lo so che cosa sto usando. Io ho 48 e così, cioè le due regolazioni è regolato per quello. Però lui adesso lo sento bene, lui, non lo so. Hai sentito cosa ti ha chiesto Luigi? Andro, che cosa serve il radio e che cosa ho operato? Allora, si tratta dell'Omega Tuner, diciamo un po' elaborato. Vedi, ripete la parola che dice lui, no, non è l'eco, prima c'era un po' detto tutto quanto, c'era troppo. Adesso Claudio ripete la parola che dice lui, hai capito? Sicuramente c'è qualche altra regolazione in quella radio, hai capito? Già l'eco è quello che ripete la parola, tipo il magno c'è due regolazioni, uno che ripete la parola e l'altro che fa l'eco, capito? E sicuramente quella radio c'è due cose, ce n'è uno per l'eco e uno per che ripete, perché adesso sta ripetendo quello che dice. Allora, aspetta un po', hola, vedi un po', no, vedi un po', ok, vedi un po', hola. Questo ripete le parole, è tipo un magno, hai capito? Questo lo devi abbassare proprio, questo pomello che hai aumentato di abbassare proprio. Allora, in effetti diciamo ho fatto un volume adesso, ho aumentato diciamo l'eco. Devi chiudere quello che ci avevi poco fa, che ripete la parola, devi aprire quello dell'eco, quello che ripete la parola chiudilo, che non serve a niente. Ripete la parola, poi se la partita l'hai fatto troppo, ripeteva troppo, continuava a battere per il lavoro. Ok, non lo so, c'ho altre funzioni per adesso, vado a capire. Molto claro, ripete quello che dice. Ripetitivo, non va bene, ripetitivo, devi eliminare la ripetizione e lasciare solo l'eco Sandro. Quello diverso dall'era 48 che abbiamo noi. Per noi è più facile perché abbiamo volume, regolazione eco, quindi vanno regolati entrambi e non ripete la parola, è proprio si sente l'eco, capito? L'eco, l'effetto di cottero, ma quello sicuramente sarà un altro tipo di radio, non lo so. Devi chiudere la ripetizione della parola, ci sei riuscito poco fa, ci sei riuscito a chiudere la vedi? Ho aperto un volume, chiuso un volume, la sento che conosce più. Ok, adesso incomincio a aprire l'eco, vedi un po', ok, vedi un po', ok, ok, ok, ok, allora, vedi un po', Ascolta, non sbaglio che fai tu, Sandro, scusa se te lo dico, che tu sai, prova un po', poco fa, ci sei arrivato al punto giusto che era giusto, e tu facevi prova un po', e sei andato dall'altra parte nuovamente. Ci sei riuscito, se tu invece fai la prova e molli il mic, dico, mica ci sei quasi, invece no, tu continui a girare, perché a volte tu l'hai fatto già per tre volte che ti è uscito l'eco. Però cosa fai tu? Rimane sempre col mic, prova, giri, te ne vai sempre al suo punto. Ehi, Arturo, aspetta un secondo. Oh, Sandro, chiudilo e aprilo un pochino, perché altrimenti ti ripete solo la parola. Secondo me non è eco, c'è la parola ripetitiva con la radio. Prova prima, ecco. Niente di strano. Che abbi. Allora, tu poc'anzi, mi hai detto che diciamo che andava più o meno in questa posizione qua. Vedi un po'. Aspetta. Vedi, prova 4. Io ecco lo sento, per me è così, ma ripete solo la parola, però non si sente, perché se io ti attacco il mio, tu senti che io ci parlo normalmente come sto parlando adesso, e sotto senti l'eco che gira, vu, invece lì ti ripete la parola quando viene ripetuta si accavalla la tua e non si capisce niente. Aspetta che tra tanto ne ho rotto, vediamo se ti ascolta, tu riprendi. Ma sì, ben sentito Gigino, ben sentito Alessandro. Sì, è che certo che lo sento, assolutamente. Prima l'ha fatto, per 2-3 volte l'ha fatto l'eco. Forse aprendolo del tutto al contrario. Prova a aprirlo tutto al contrario, vedere, Sandro. Allora, vediamo un po'. 4, 5. Allora, adesso è 5. Adesso è 4. Adesso è a 3 adesso. A 3 inizia già a esserci un po' d'eco. Abbassa ancora un altro tono appena un pelino, perché si sente un po' d'eco. Fa un altro passaggio a 3. Allora, adesso è a 3. Faccio un altro passaggio giù. Adesso è a 2. Prova a aumentare un po' il volume. Ok. Aspetta, adesso già tu e già si vedi che già un po' cambiato, non ripete, già fa un altro reflevo, hai visto Claudio. È questione di regolazione questa radio. Abbassa la radio però, lasciala a 2 e non toccare la radio, perché stava andando bene, si è andato tutto in distorsione. No, adesso provo un attimino a abbassare il volume. Allora, adesso il volume l'ho abbassato, l'ho messo a 4. Mettilo a 3 il volume, non toccare l'eco però, metti a 3 il volume. Ok, adesso l'ho messo. 3? Com'è? Io ti sento bene adesso, non si accavalla la modulazione. Tu come lo senti, Antonio? Sento perfetto, davvero. Adesso, cioè, bene. Adesso è leggermente amplificata, ma è molto, non c'è quello che non ti ripete le parole, capito? Adesso rimane leggermente amplificata, non è ce n'è eco, però rimane leggermente amplificata la radio, però bella chiara. Ok, ma considera che così è come che non ci sia niente, perché allora adesso è a 3, io adesso elimino tutto. Ok, adesso io ho chiuso tutto quanto, diciamo che ho una modulazione sua, diciamo standard, che cosa ha cambiato? Buona, ma prova per se c'è, ma se fa che se no, prova se da toccare la ripetizione, ma due regolazioni c'hai, due cose c'hai. Sì, sono due pomelli. Due pomelli, il primo pomello, diciamo, frontale, la levetina è punto volume. Poi c'è l'altra leva sotto, diciamo quella rotonda, è punto della, c'è scritto. Appena appena quella di sotto, ma poco poco, a vedere quella di sotto, un pelino, e poi la riporti dove è, poi proprio quella di su, provo un pelino solo. Allora guarda, così a due, così a tre, e il volume a tre, vedi un po'? Ma questo è solo il volume, no, questo è il volume, no, anzi, se è troppo alto è a quizio, è quizio, troppo alto. Allora l'altro non lo so, perché ripetere è bruttissimo, quando la radio si ripete le stesse parole che dici tu è bruttissimo, così accavalla, no? Così diciamo la posizione che era prima di spostarla adesso la radio era perfetta, solo che è senza l'eco che dici tu non c'è. Una cosa, insomma, quello che mi ha detto stasera, se non ti sposti ti metto sotto, chi era quello? Qua ti è stato detto, Vigliacco, chi te l'ha detto? Vigliacchi. No, chi è stato? Lo so chi è stato. Mi avete bruciato una cosa, ve la pagate. Che cosa? Cosa è successo? Mi ha perso qualcosa? Mi sono fermato perché ho detto, chi tu mi curia, va. Ma forse hai fatto bene a tirare dritto, perché è incazzato, se hai visto l'espressione già fermo, mi hai visto un po' incazzato. Ma infatti, poi non ti aspettavo così grosso, ma mi hai riconosciuto o mi hai sentito dopo? Dopo non ti ho sentito, ho pensato, ho visto l'antenna, mi ha visto, però ho visto che ha tirato dritto, però già ero con le... ero un po' così che mi voleva fare entrare lì dentro col rimorchio, dove c'erano tutte le macchine parcheggiate, ma giù in fondo, mi dentro davanti. Ma di Roger, no, ti volevo fare uno scherzo, perché ti ho sentito che stavi entrando lì dentro, quindi ho fatto il giro, poi ho visto che eri un bel grosso, mi sono messo dietro con la macchina, quando ti ho detto quella cosa, come ti sei girato, ho detto esci che è meglio accelerare, non sia che non mi riconosca. Hai visto lo sguardo che ti ho fatto? E ho già un po' messo incazzato. Figlia, il dio vulcano sembravi a tirare strali, ho detto esci che è meglio tirare dritto. Alle quasi alle 4 da Cagliari, ho tirato fino lì e poi vado lì in mezzo al casino che la gente lo scarica, il servizio lo scaricano stanotte, poi che ho fatto tanto cose, poi mi hanno detto che no, ma lo scarichiamo domani mattina, dopo mi stanno fatto incasinare manovre contro manovre a piazzarcelo lì dentro in mezzo al traffico, in mezzo a tutte le macchine parcheggiate, mi hanno detto no, ma lo scarichiamo domani mattina. Trovi un macco che ti dica, io se non ti sposi ti schiaccio. Vuole cambiata, è troppo, o se no ci devi mettere un streamer, se lo regoli fino a che non picchia. Guarda che tu ti ascolti forte quando vuoi farlo ascolto, giusto? Non lo so, adesso questo io adesso non posso aumentare, non lo posso fare come voglio, diciamo, dai, di serie questo. Non ho capito, è di serie. Cioè esce così, non è che dispongo qualcosa applicato, modificato, capito? Ma è troppo, o c'è la radio troppo aperta perché non deve non innesca così, io anche io ce l'ho parla ascolta, se lo metto il BCG tutto al massimo, apro tutta la radio e entra a fischia, tutto a fischiare. Questo adesso non lo so, io adesso niente di strappato. Ok. Niente di strappato, che adesso lui, perché siccome io adesso sto modulando con il piccolo e poi c'è specifici di modulazione. Sì, adesso sotto c'è un po' d'eco, giusto, che prima non c'era, c'è, non riflette, è un po' d'eco c'è sotto adesso, dopo è entrato un po' d'eco che prima non c'era. Boh, io ti lo ascolto male, Luigi, è tutto a fischio ancora, non so perché, boh, ho già per ascoltato troppo alto, cosa ne so. No, prima era a fischi tutto, adesso in questo momento no, non lo sento, prima era tutto fischi che si è colto. Adesso in questo ultimo passaggio non stava fischiato, si sentiva leggermente ad eco, ma non stava, più o meno da me non lo sentivo, l'ultimo passaggio che ha fatto. Prova, saluto. Ok, ma guarda, io adesso ho eliminato Paolo Ascolta, in questo modo qua. Senza parlascolta non fischia più, se tu sei lucido, perché è troppo alto il parlascolta, hai capito Carlo? Vorrei cambiare il diodo e penso diversa cosa, hai capito? Io ce l'ho così senza parlascolta, perché con parlascolta io ti ascolto tutto a fischie. Va bene signori, io vado a cenare, ci sentiamo dopo. Ciao Sandro, Luigi e Antonio Grobbe. Mi approfitto anch'io per andare a fare carica. Ci sentiamo dopo se coincide. Ciao Sa. Ciao Sparviero, ci sentiamo dopo. Dai, ciao. Ciao a tutti a dopo. Lascialo così Sandro, per me va bene così, non ci sono problemi. Ti ho fatto ascoltare gli altri. Ok, dai, ciao Claudio, se così da più tardi. Ciao Antonio. Alle prossime. Lascia la luce che va benissimo, sono a toccare, guarda, le vado benissimo, dai, ci sentiamo dopo, ciao a tutti quelli che per me. No, va bene così, Sandro, altro ti ho fatto ascoltare gli amici di Cagliari. Non ho capito Gigi, gli amici di Cagliari. No, altro ti ho fatto ascoltare. Non ti ho copiato, dimmi. Ti ho fatto ascoltare gli amici di Cagliari. Negativo sei basso, ma perché sei così basso? Non cambiamo. Ok, ma allora con cosa stai dicendo? Con 4 watt? Sei 4 watt a te di radio, aumenta, adesso di più mi ascolti. Adesso sei qua vicino, sì. È positiva tutta a zero. Ho detto stamattina Claudio, gli ho fatto ascoltare in diretta gli amici di Cagliari di stazione Fisso. E com'era? Considera lui com'è, gli ho fatto ascoltare. Si stavano uccidendo il radio, me la fate sentire al telefono, si stavano uccidendo il radio. Addirittura. Ma tanto si stava. E dopo ci lamentiamo di essere, ma noi siamo dei signori confronti a loro. Ma è stato da 5, poi sono passate le 45 e non lasciavano un canale libero. Ma non sai cosa vuol dire minacce di tutti i colori, parolacce, mamme, figlie, sorelle? Ma lo sai cosa è successo stamattina? Dimenti, io pensavo, ti dico la verità, ci devo scendere dopo domani, così mi poi va bene, intanto scendo con la mia macchina, finisco l'apparato e voglio sentire un po'. guarda, non c'avevo il tuo numero, volevo fare ascoltare, non c'avevo a portare telefono il tuo numero, e non te l'avrei fatto ascoltare. Cerchiamo di fare la registrazione, non ci sono riuscito, tu hai impriato. Oh, ogni volta, perché stavo viaggiando, ero lì, che ancora in zona di Assimini, e lo volevo fare, registrarlo nell'altro telefono. Non riusciva la fotocamera, la mannaggia, non riusciva a mettere le registrazioni. Quelli di via Brenta non dicono niente. Cosa? Dico, quelli della, di via Brenta, quelli dell'Escobot non dicono niente lì, non fanno controlli. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Ma te ne ho detto tutti i colori, ma dette proprio, ma dette, tutto è capitanese, Un attimo, oh Gigi, adesso dovrei aver eliminato tutto quanto, quindi modulazione pulita senza eco, senza niente, com'è? Ottima, così è buona Sandro, è ottima la... va bene, ma allora se metti quel parlascolta innesca un po', capito? È troppo alto forse, perché deve essere un po' basso come parlascolta, se no tende a innescare, senti l'innesco, se no devi chiudere molto la radio, hai capito? E se chiudi molto la radio poi non c'è il radio. Ho capito, bisogna vederlo, tutto più vediamo un attimino, tu che le mastichi meglio di me, magari qualche sabato qualcosa lo vediamo assieme, che tu ormai ne sei già pratico, ma giusto così per usarlo qualche volta, considera che io adesso sono col suo mic normale, col mic normale diciamo di il suo. Antonio, come mi ascolti? Ti dico la verità, a me fa sorridere la cosa, perché stai uscendo talmente bene che io davvero gli avrei fatto una passata di colla a quel baracchino. Stai uscendo benissimo, non bene, benissimo, non hai margini di miglioramento, quindi secondo me devi lasciare proprio tutto così. Ok, va bene. Poi c'è una cosa, Sandro, da considerare, devi sapere una cosa, che sugli apparati che hanno queste cose, questo coloro già incorporato, perché quello ce l'ha già incorporato, non va bene un microfono da tavola, ricordatelo, ci vuole un microfono normale suo, il microfono da tavola non va più bene, perché già ha amplificato lui, e se lo entra in nischi fa un casino nero, hai capito Sandro? Quel tipo di apparato così va bene, solo il microfono suo normale. Perché l'amplificazione poi l'eco ce l'ha lui di sé, hai capito? E non ci vuole, non ci va, microfono amplificato non ce ne va, perché l'amplificazione ce l'ha all'interno, l'eco, la scheda eco, tutte quelle minchiate varie ce l'ha all'interno lui, capito? E allora non puoi abbinarle, non va bene l'abbinamento con microfono amplificato, se non microfono a tavola, non va proprio bene, capito? Sa, su questi apparati, quell'apparato lì, ci vuole solo un bel microfono normale, come ce l'ho io adesso, quelli come la doppio del camion io la doppio microfoni che pago 12 euro ci prendo 12 euro l'uno lo pago quel microfono lì. 12 euro e poi la cosa c'è l'apparato dentro, tutta l'amplificazione, e il microfono va, microfono normale, di quelli proprio normale usa eccetera. Ok dai, sì no ma ho già fatto la prova, sì. Ho fatto la prova con l'amplificato lì da base, ma fischia, fa di tutto, guarda, no, perché diciamo che questo all'interno ha il doppio modulatore, capito? Il doppio modulatore, e quindi diciamo evidentemente non lo sopporta. Va bene, allora aspetta un attimino, adesso voglio fare la prova, voglio ridurre un attimino la potenza a 5 watt, vediamo un po' se cambia qualcosa. Ok, allora adesso sono esattamente a 5 watt, com'è? Meglio di prima la radio, è più bella, è più chiara, ancora più chiara così, con 5 watt è ancora più bella la radio. Ok, no, ma infatti me ne accorgo anche dallo smitter, siccome questo ha lo smitter e poi a fianco c'ha tipo frequenzimetro dove sono dei led, diciamo, tipo il baracchino a led oltre allo smitter, e mi accorgo, diciamo, che li manda proprio a fondo scala. Sì, ho ma questo un apparato che avevi tu da prima o un apparato che hai acquistato recente, com'è? No, ho preso, diciamo, da recente, mi è arrivato oggi. L'hai preso, ho capito, ma dimmi, ma cos'è, ma... aspetta, non ho capito, che apparato detto che era, non mi ricordo più. Allora, questo si tratta del Omega Force 45 della Magnum. Aspetta un attimino, aspetta che accendo la luce, che mi pare che io c'è... Ma, dove, ma di quelli di Plea che ti ho fatto vedere io, c'è quello lì? Allora, sta la targhettina Crossfire. Di quelli che ti ho dato quel sito io sono. Ehi, Agici, di quelli che mi hai dato tu, sì. E questo cos'è nuovo, allora è preso nuovo. Nuovo di pacca. Ma se tu hai qualche consiglio, io da qualche parte dovrei avere il numero di un Luca si chiama, di lì, proprio di lì. Io lo conosco dal 2004, hai capito che c'è un buon rapporto con loro lì. Se vuoi sapere qualche consiglio, perché a me mi avevano mandato come campioni qua a Marrubio, e questi apparati io me li faccio arrivare, me li mandano qua a Marrubio, hai capito? Me li mandano come campioni, come cosa, hai capito questa roba qua? Infatti io questo qua l'ho visto nel display che ti ho dato io a te, è per quello che te lo... adesso ho capito quale... perché ce l'ho nel display qua, ho capito quale apparato è. Ehi capo, registrato un prego. Oggi sì, ed è lì della Prosler, è stupido della famiglia della Magnum, però diciamo ha qualcosa in più diciamo dell'S9, ha qualche accorgimento, c'ha le memorie, c'ha varie funzioni, insomma, qualcosa del genere. Allora, ascolta, io adesso l'ho portato, aspetta un po', ok, io adesso sto lavorando un attimino sul Mikey Gain, guarda un po' così come va. No, adesso è la numera che mi dice. Era, non ho capito. Claudio entra. Io vedo perché non ho lasciato come era chiamato video. Allora, adesso giusto che faceva tipo il magno, infatti è della stessa famiglia del magno. La ripetizione fa tipo come il magno, infatti c'ha due regolazioni. Comunque, non te l'ha dato un depliamo, un qualcosa di regolazione, di cosa, non ce l'hai tu, non c'hai niente. Sì, già ce l'ho, ma purtroppo è in inglese. In inglese? Mannaggia messicane. Non ne hai ecco adesso, eh? Lo so che adesso esco, ecco, non ne ho, perché ho chiuso tutto. Allora. Ok. Vediamo un po'. Così ci ha appena detto. Così deve funzionare, questa è la sua posizione. Senza però ripetizione. E se troppo l'ascolta, se no fischia. Ok. No, infatti con parlascolta è fischia. Sì, evidentemente subentra la parlascolta. Va bene per me. Ok, io sono entrato e ho terminato di cenare. C'è qualche domanda a parte voi, no? Lui, se non è quello che eravamo, se è l'altro Giuseppe Leoncino. Che vuole entrare avanti? Mi sembra cosa, Gianni di Chiaramonti. Gianni, sei tu? Ciao Gianni, ti ascolto un po' bassino, dai. Ti ascolto un po' bassino, mi ascolti? Ascolti. Non lo sento per niente, c'ho troppo QRM. Non riesci a tirarti fuori. Lo ascolti o Gigi? Oh, Gigi. Stavo guardando nel DPA, ma nel DPA mi pare che non c'è questo... Non c'è quello che dici tu. Omega Forge. Quello lì stai dicendo. Esatto, Omega Force 45, ma quel debris mi sa che non c'è. Il mio lo sto guardando con garanzia italiana. Questo qua è... Allora, AMFM3B CW 80 watt, così è, in come si dice, in fase laterale, così è. Esatto, nell'acqua 80 in fase laterale, sì. Quello è 40 watt in AMVCC. Mi è già solo il genere, sto guardando, è abbastanza un bel apparato, mi Sandro. Questo qui è bello mi per prestazione. Ma è il 10 meter, cos'è? 10, non 10 metri va perché? Positivo. La radio mia è grande pure, non è piccola, Questa è bella, la sto vedendo qua, è bellissima. C'è il frequenzimetro, lo smitter. Sì, lo sto vedendo qua, il 45 è l'S45, questo qua è. Positivo, esatto, S45. Sapete, non ricordi di Gis, qual è? Non lo ricordi. Lo ricordo perfettamente, una bella radio. Una bella radiolina. Per l'uso 27 è più che sufficiente. Quindi adesso mi dietro la scatola queste quante, usi questo sacco. Vi siete un attimino, non sono troppo avanti. Cos'è che hai detto? Ho detto ti conviene mettere 440 dentro la scatola, usare questo? No, quello mai, perché non penso che questo dia battaglia a 440. Decametrico 15, 17, 21 così sono quelli di dai, 0,30 metri a metro così, ma sempre un baracchino, eh. E io vabbè su sì, infatti sono inviato, però per me una radio amatoriale con la sintonia continua dei cametri che io le ho avuto, ma non dà nessuna soddisfazione. Immagino è così, c'è scritto, vedi, c'è scritto nel mare, c'è scritto di così, è così, però non mi piace questo, tu già lo sai, che te l'ho dato una volta quel magno, poi me l'hai tornato e te l'ho già regalato. No, non mi è piaciuto neanche a me, c'è una motivazione, no, non mi piace, è tutta, non ha un ecco sincero, bello, è tutto risaltato, no? Se non le fai la modifica, l'eco è quello della 48, ma anche il magno si è modificato, la scheda corta e tutto si fuma normale, non mi piace. E che è meglio quello che c'è Sandro? Molto, molto meglio, come è regolato così esce perfettamente. Aspettate un attimo Claudio, che volevo dire, leggermente ha aperto un macchinino, ha cambiato la modulazione. Non ne hai eco però? No, ecco adesso non ne ho. Com'è? Bene, bene, va bene. Provo con Luigi che lui è più esperto in materia, perché anche a me sinceramente non è 48, ma l'ha regolato lui e non l'ho toccato più, Proprio faccio finta che ci mangiano i pomilli, capito? E se te tocca tocca, poi esci fuori eco ed è un casino. Prova con lui a fare le regolazioni. Ok. Aia, ti ho beccato, non hai riconosciuto tuo figlio. Che stai dicendo mio Claudio? Non mi ha capito forse. Claudio. Eia, l'ho riconosciuto che hai cambiato adesso. L'ho riconosciuto che hai cambiato, va bene così quella lì, però per quanto riguarda l'altro, se devi fare qualche regolazione ti conviene farla con Luigi, che lui è più esperto in materia, io il mio me l'ha regolato lui l'anno 48. Nonostante io me lo ricordassi, però quando mi ha sentito mi ha detto no, va bene. Gira così, gira lì e l'ho lasciato fermo. Una volta che Luigi a me mi fa regolazioni con l'eco, io non mi fido di altre persone. Vabbè, adesso vediamo qualche giorno, visto che Gigi ne mastica un po' meglio. Oh Gigi, qualche giorno lo mettiamo sotto, Va bene, ma c'è anche regolazione, i vasi possono abbassare e sollevare. Sì, c'è il pomello sul macchinino, c'è il pomello dei watt, diciamo. È positivo, però ti dico una cosa, guardandola è bella come radio, è bella, dico la verità, guardandola è bellissima, però non c'ha le bande, non c'è, per esempio sopra non va sopra, sul 45 non ci arriva quella, non c'è idea, quel canale lì. Claudia, le tempi a coso? Specialmente a te e a Sandro del Pondottore del Gianni di Chiaramonte. Guarda, io ho segnale a 7 e quindi non lo sento. Gianni, se mi stai ascoltando, perdonami, ma io ho il QRM è molto alto stasera, quindi non riesco a tirarti fuori. Non riesco a tirarti fuori come faccio sempre normalmente. Quindi scusami, ma non riesco a tirarti fuori. C'ho veramente il QRM, come è passato il vento, mi sta entrando questo QRM allucinante. Sta parlando? No, mette una leggera portantina, mi sembrata, perché parlando, non ho sentito parlare, prima lo sentivo. Gianni, mi ascolti, Gianni di Chiaramonte? È stata la propaganda, Questa propaganda, ormai non sentiamo più. Allora G, che cos'erano? Mattoni e reti elettrosaldate? No, cosa complementata. Cosa mi diceva? Non c'è il rotolone di carta igienica, fortunato. Da Caglia ce l'aveva appresso, me l'ho portato dietro. Ma uno, qualcosa ho visto, mi sembrava rete elettrosaldata, rotoli di rete elettrosaldata mi sembravano, boh, forse ho visto male. Una roba, diciamo, tipo polistico, movimentata, le pareti, diciamo che fare così in legno, si chiama terrazzi, mettono quello per movimentare, capito, sotto le tegole, non so, qualcosa del genere comunque. Ma allora è roba leggera, ma io spesso vedo i tuoi colleghi scaricare lì, Fabio lo stesso l'ho visto lì, ma te ne sei accorto subito dall'antenna? Positivo, positivo. Oh, perché quello lì è un'antennina, dai, non è così alto, cioè spara bene, però è piccolino piccolino, è 60, 70 centimetri quell'antenna. La cosa che è più piccola di antenne, Fabio lo sa, è che... E con le piccole antenne ricevevo abbastanza bene da lontano, addirittura. Il problema è che non la posso mettere da un'altra parte in quella macchina, perché hai visto che è cabrio, no? Quindi non, l'unico piano di massa che gli posso fare è davanti. Sandro, allora, avanti sta. Ok, dai, ne approfitto, signori. Non andare a far carica, dai, se coincide più tardi, se no le prossime, dai. Salutoni a tutta la ruota. Mi hai sentito, ben ascoltato. E bene, dici. Poi ci abbiamo salutato assieme. Ciao, sa. Domani se coincide. Ciao. Prego. Ciao, Sandro, ciao. Con le prossime avanti break. Buonasera, Massimiliano Bulldozer. Buonasera a tutti. Ciao, Massimiliano. Buonasera, ben ascoltato. Ciao Massimiliano, c'è un'antennata sotto comunque, sotto questa cosa. Avanti Claudio. Mi sembra che questa antennata c'è, ma poi io non so se è un'antennata, se è un rumore strano, che la radio è molto forte. Sempre quella radio la corsoletta stai usando. No, allora sarà il problema di questo microfono, perché se io attacco l'M25 alternata non è là. Capito? Il problema allora è questo microfono. Quel microfono su quella radio, quello non lo fa. Sui marchi che stavo usando io non lo fa. Tu cosa stai usando adesso, Luis? No, negativo, sto usando il Tornado. Visto che c'era anche Antonio Grotte, volevo sapere se mi sentivo a me, che lui mi diceva che ero spostato. Negativo coso, Massimiliano, ben sentito innanzitutto. Adesso ti sento centrato, però c'è questa alternata, lo stesso che sentono loro. Cioè ti sento bene, sì, in frequenza assolutamente, però c'è questo rumore strano sotto. Aspetta. Adesso non ce l'hai però, non lo sento io. Prova. Guarda a vedere se lo senti. No, io non lo sento adesso. Adesso è a posto, adesso la radio è buona. È ultimo adesso, ma non è come fa. Quanto è male che muovendo faceva qualche contatto, il giorno abbiamo provato, Claudia, può essere. Ho sbagliato, visto che cos'era quello che quando schiacciavi faceva appena quel microfono lì era. Ma era la batteria scarica. Poi l'ho usato qua con l'HP23, prima di collegare il coso, come si chiama, il tale più 3, e non lo faceva, adesso io non lo sento quel rumore, prova Massimiliano. Guarda, in questo momento sicuramente lo sente, non sai perché non lo senti, perché lo stavo staccando, ci ho messo la mano nel connettore, vedi, adesso la mano non ce l'ho e ho mollato la rotellina solo, capito? Vedi un po' se lo sta facendo. No, non sento niente io. Radio, Claudio, è diversa la radio, capito? O sta parlando lontano dal microfono, qualcosa ha fatto. Guarda, io ho il microfono, sarà 40 centimetri, 50. Massimiliano. Si sente, da questa parte si sente. Bella, pulita e forte, non c'è l'antennata sotto. Poi non c'era l'antennata e c'è la radio bassa bassa, diversa, con la voce diversa. Capito? E adesso è tornata l'antennata. Ascolta così, lui, guarda per vedere, perché sto muovendo il capo, meno peraltro, non ci sto per rendermi conto se il capo. Ecco, adesso ha aumentato la cosa e c'è appena l'antennata, ha aumentato la modulazione, hai capito? Allora questo microfono, questa radio non va bene. La radio è è più pulita e più forte, hai capito? E a momenti ti fa una voce più diversa. Io lo so, evidentemente non abbina a quel tornado, però quando c'è la modulazione c'è molto forte, solo si porta presso questo rumore. C'è qualche connessione da invertire di sicuramente. Massimiliano, prova a mettergli a massa il fondo del microfono. Aspetta una cosa, Massimiliano, sono stati cambiati, no aspetta un attimino, a volte quando le cambiano le connessioni delle dietro nello spinotto, dentro dell'apparato, ci sono tutte quelle tipo di secchiette, e quelle se non le rimettono al posto giusto, e spostando i fili, poi capi stanno spostati dalla parte opposta, si può causare questi problemi, perché loro per eliminare tutti questi problemi ammettono, visto ne mettono due, tre, tutte aggiunte assieme, fanno tutti quei ponticelli con quelle lenticchiette. Chi lo sa fare? Voglio dire, chi sa, io per esempio non lo so, se lo vedo già senza smontare, li sposto dalla parte e li metto in posizione come erano, però se tu quelli non li sposti, li lasci fissi come erano, non va bene, ti dà questi problemi, capito? A volte ti innesca, ti fischia, ti fa delle alternate, allora cosa vanno? Vanno a correggere sopra quelle cose lì, quelle specie di lenticchiette, che poi saranno diode, non so, transistor, un'altra cosa, impedenze, non lo so cosa sono, ecco, e vanno a lavorare sopra quelle fanno dei ponticelli con quelle lì e tolgono questi problemi, capito? Sicuramente lì è stato spostato la come si chiama, questo non ne sono sicuro, e non sono state spostate quelle lenticchiette. Oggi guarda questo qui è il microfono suo originale, qua non è stato spostato nessuna lenticchietta né niente, poche parole, qua è stato solo invertito, ho fatto attacco Midland, l'attacco a 4 c'era già, capito, e hanno solo invertito i fili, basta. Dunque io quello non l'ho toccato da quando me l'hai dato tu, è sempre così, l'unico che l'ho provato è Massimiliano. Massimiliano, quelle lenticchiette c'erano dietro quando avete spostato i fili? Non ce ne sono in questo, perché questo viene direttamente dallo stampato, capito? Stampato, ma a volte gliele mettono hai capito? Gliele mettono nel coso. Tu qualsiasi paracchino che apri, tu non ne vedi uno che non c'ha quelle lenticchiette attaccate lì allo spinotto dietro. Tutti, se ne mettono due, tre, fanno dei ponticelli, se ne mettono un vite, ne mettono arancioni, non so se l'hai notato. Ehi, c'è ragione, però questo non ce n'è, capito? Non ce n'è mai stato, da quando ce l'ho avuto io questo. Ti faccio vedere che io attacco l'MB+5 e quel problema non lo fa, capito? Sai cosa ho fatto? Io ne ho fatto uno con l'attacco lì, poi ne è stata tua quelle lenticchiette, quelle cose, solo il microfono normale, mettevi il microfono amplificato e andava a farti fottere. Non c'è stato rimedio, né uno io ho fatto così, mi ho tolto quelle cose, non le ho messe, quello piccolino, e quando gli metti i microfoni amplificati fa questo problema così, queste alternate fa, perché gli ho tolto quelle lenticchiette, io capito. Boh, non lo so Massimiliano, ma guardate che Calvino non te lo sape anche risolvere quel problema, se sa dove vanno messe. No, volevo chiedere a Claudio, siccome c'era un trimerino che lui mi ha detto che non l'aveva toccato, invece l'ha toccato perché io l'avevo segnato, l'ho spostato di un paio di millimetri, volevo sapere se è perfettamente in linea adesso, hai capito? Perfetto, perfetto, perfetto. Così sì, perfetto, però per Gigino, io quella connessione che c'è nel saletto, lui da quando me l'ha data io non l'ho toccata, perché andava bene per la KB23 e anche per la 68 andava bene, e quindi non l'ho toccata, però fischio così, cioè di rumore d'alternata non veniva mai fatto con questa connessione qua, non lo so sul tornado perché lo fa quel rumore lì, evidentemente c'è qualche filo da cambiare, se c'è qualche filo da cambiare o Massimiliano, faglielo cambiare a Gavino, non ci stanno problemi. Capito Claudio, io intendevo dire nell'apparato, lui ha invertito nell'apparato, hai capito Claudio, lui mi sta dicendo che non è di quelle, nell'apparato stiamo parlando, non del microfono. Ah, nell'apparato, no, l'apparato non so, io per quanto riguarda il microfono non lo metto. Alfa Delta, quando io lo accendo con tutti i baracchini, l'ho già provato, c'ha questo problema qua di alternanza. Io invece attacco l'MV più 5 a tutti gli altri baracchini che ho e questa alternanza non c'è. Sicuramente magari c'è qualche filo, tocca o non tocca, che magari è da vedere un po', capito? Beh, quello te lo sto dicendo, siccome la connessione è alla 68, faglielo per controllare, Gavino, ci sono problemi. O apro tu e controllo, magari c'è qualche filino che sta toccando o addirittura qualche filino che è da invertire, non lo so. Vedi tu, non ci sono problemi comunque, fallo vedere a Gavino. Glielo faccio controllare, no, perché gli ho messo anche la batteria nuova, credevo che era da quella, invece c'ha sempre questa alternata, perché è forte come il microfono, capito, va bene. Aspetta, Lorde, vai. Ricordavo più. Ascolta, segnale com'è qua, 5 watt, tondi tondi questo tornado, 9 più 25. Così invece, qua. 9 più 30. Ma la radio aumenta? E la radio dove aumentaci? Vabbè. Alla grande, vai, alla grande, vai giù. Ma alla grande al virus, però. Perfetto, perfetto. Io vabbè, sono sempre con questo piccolino, 9 più 3. E il supplemento. Grande. Ecco, dovevo chiamare, scusa, c'è la frase con tutto. Mi ha scaricato tutto il coso delle tarme più 3, l'ha fatto Ottore, Ottore Mistraglia, un amico mio, e ha compiuto, me l'ha scaricato lo schema, tutti i fili, come vanno collegati, tutto quanto, me lo deve dare lo schema, capito? Mi ha scaricato lo schema, ma stasera mi stava scaricando quello della Fayette, che devo mettergli quella batteria, come rasettare lo schema di quella Fayette pure, quello che ho a casa, me l'ha cercato, ma trovato, mi si è scaricato tutto lo schema di quel microfono, per darmi più 3, capito, Claudio? Anche lì lo stesso, quei fili ce l'hai visto come vanno. Se poi devi cambiarle tutto unico, si collegano direttamente al commutatore del PTT e poi si prova. Così le attacchi lo spinotto a 4 e lo usi con il baracchino così normale quando sei a casa. Sì, però ho notato che manca un filo alla scheda che va attaccato, perché sennò non può mai funzionare, perché dal PTT sempre ce ne fanno due di fili per andare al microfono, alla capsula, ce ne fanno due, invece lì ne sta pigliando uno solo e non può mai funzionare, hai capito? E allora ce ne manca uno da quei fili che tramano dal PTT, ce n'è qualcuno che aggiungeva e andava, che era attaccato e attaccava da qualche parte alla scheda, capito? Sicuramente. Però non ha detto lui, ma ci sono i fili, tutti quelli di fili pure ci sono, ma ha detto lo deve portare sabato mattina, poi ci troviamo e mi dà tutto, me l'ha caricato quello delle tarme più 3, gliel'ho detto ieri, no, se aspetta lo scarico io, sta sempre in internet, me l'ha trovato e come me l'ha descritto è preciso a quello che ho io più o meno, lo schema che ha tolto, e lo guardo da lì come è messo, dai, come sono messi i fili, e lo rimetto con calma e li rifaccio tutto, gli metto il capo nuovo e lo rifaccio a nuovo e provare a farla nuova. Allora, scusa. Vi saluto, dai, che vado a fare un po' di carica io, là. Se ci siete, vediamo se riprendo dopo. Se no, per il momento vi saluto a tutti, da tutta la ruota. Ciao, ci vediamo. Buona cena, buon tutto. Se coincide, ci sentiamo dopo, altrimenti a domani, dai. Saluti a casa. Vai, lui. Ciao, Massimiliano. A domani, perché mi sto attenuando un pochettino e poi vado a riposarmi pure io. Vai Antonio Grosso. Oh, Antonio dove si sta mangiando? Già rientra, intanto lui c'è sempre qua ascolto. È positivo, ho capito, in passato non si è fermato nulla. Ma adesso se avevo questa macchina appresso, poi mi ha dato la voce, quando se ne sta affazzato, gli ho risposto e si metto sotto. ma non ho mai riaccattato male batterie, ho fatto uno sguardo, si è capito di attirato dritto. Ehi, già me l'ho letto, già me l'ho letto. Già me l'ha letto che stava facendo uno scherzo, e tu sei là dove? Con la voglia che ne ha Luigi stasera che è tornato a piangere, ma io me l'ho immaginato, siccome è capitato di essere lì, io ero articolato, stavo bestemmiando per entrare perché è tutto pieno di macchine a destra e a sinistra, e quindi ho detto, ma se Luigi è incasinato sarai incazzato a me, ho detto, ti come andate? No, stavo parlando con me al baracchino, capito? E chiamava a te, ha detto non c'è che sta scaricando, e gli ho fatto uno scherzo, vai in linea, gli ho detto di qui che di mico a capo. Positivo, dai, positivo. No, ero cavolo. Poi non c'era posto, sai, tu salvatemi dove entrano al negozio me, sull'articolata, e chi va a parcheggiare? Come fai se ci sono le macchine? Come fai tu a farti la posizionale e ci non caricavano stanotte? Ma come fai? È tutto pieno, tutto il parcheggio pieno di macchine. Infatti c'hanno la parte dall'altra parte. Ho capito perché non aprono un cancello dall'altra parte, fanno scaricare gli articolati, no, li vado ad entrare nella rampa a salire lì. L'ho visto lì come scarica, è un casino. È un casino, capito? Ascolta, ma tu lo smitter lo vedi? Se io ti faccio un passaggino, ma giusto così per capire una cosa. Sì, Claudio, però te, questo non è preciso, è molto... Non l'ho toccato perché io non l'ho aperto questo apparato, Claudio. È un bel apparato questa, attenzione, perché è tutto a quarti, è a quarti questo, è così tipo quelle 23 di dentro, sono più di a quarti, E ho visto che non sale molto rispetto agli altri, mi dà di segnare quasi due in meno di Santiago, ma lo sai, due punti in meno mi dà. Non l'ho toccato, dico la verità, l'ho aperto però guardato senza toccare nulla, senza metterci le mani dentro, esce con 4 watt e c'è tutti quanti, tutti, c'è tutti quanti, c'è tutto quartzato, tutti quegli appari argentati, tutti incazzati, quelli ricciati, tutti, e non è finita, è direttamente al 200 canali, e poi va a finire, poi va meno sotto, e poi deve andare sotto. Ma vabbè, ma è orientativo, mi interessa sapere solo se c'è una variazione, guarda, stai attento, da questo passaggio io ho invertito gli amplificatori, a questo passaggio variazione c'è. E di un punto, da sì, allora, l'altro passaggio è di 7, però attenzione, si attacco l'altro vai quasi a fondo scala, questo qua perché non sale di molto di cosa. No, da 7 e l'altro è di sì, però te lo posso guardare, non parlo e te lo posso guardare l'altra vez perché c'è un po' più forte l'altra. Te lo posso controllare nell'altra radio. No, lascia così lui. E quindi da così, lascia così, mi va bene lo stesso. Da così la modulazione non cambia, non è che c'è disaccordo, niente, va bene lo stesso. Va benissimo. No, diventa più bella pure la radio quando aumenti. Non c'è disaccordo di niente, anzi migliora, la senti più bella, la più forte, ancora migliore la radio, hai capito? Ehi, certo. No, era giusto per capire, perché ho invertito gli amplificatori e quindi volevo capire se questo HB23 funzionava bene anche quello con il volume grande, capito? Ciao Antonio, buonasera, mangiato hai? Buonasera a tutti e due. Mangiato, lavato, preparato il mangio per domani, tutto pronto. Niente, qua a casa ha fatto prima eri Santiago 9 più 30, era 9 più Santiago 5. Poi quando hai fatto il secondo passaggio si è rifatto Santiago 9 radio 5. Il primo passaggio sei 9 più, il secondo passaggio 9 5, il più non ci arriva. Già sale allora, già sale. Già va bene. No, io lavoro bene con le valvole, mi piacciono troppo. E allora gli ho collegato l'altro grande, l'ho spostato. E l'ho collegato qua alla 100, sempre con tale più 3 perché le connessioni sono uguali. Quindi diciamo che in linea di massima con questo tale più 3 faccio 3 radio, quasi 4. Poi lo facciamo fare i connettori a 4 anche agli altri due, così li uso tutti con un microfono. E bello però è Luigi, che la modulazione non cambia mai. Il suo tale più 3 va bene a tutte le radio che uso io. No, si abbina su tutte le radio, quello sì, si abbina in tutte le radio. Questo mi piacerebbe farmelo regolare lo smith, però non lo voglio toccare io, da uno che ne comprende, capito? Fammela, questo è un 2001, è un 2000, prometto che è 2000, che è 2001, capito? Non te l'ho mai fatta vedere questa radio, non l'hai mai vista tu questa radio, mai l'hai vista tu questa qua. Non è quella che ci avevi giù? No, non l'hai visto tu, mi pare giù questo. Questo tu non l'hai mai visto, questo Intec non l'hai mai visto tu. No, io ho visto tutte le radio tue, a meno che non sia una radio che hai tenuto sempre nascosta, ma a me mi hai fatto sempre vedere tutto. Tutto quello che fai e tutto quello che hai. Non so, ormai non mi ricordo. E allora, Tony, cosa si dice? Trabacco? La verità, molto molto stanco e stressato, la verità, molto molto stressato. Antonio, cerca di rilassarti un pochino, perché lo stress sul lavoro è brutto, anch'io a volte arrivo un po' disintegrato di testa, ma poi ci rifletto un pochino e dico stop, mi fermo un attimino, e ciccia, perché lo stress dal lavoro comporta tantissime cose, malumore e così via, già mai capito, quindi cerca di stare tranquillo e sereno, che in questo momento mi sa che siamo tutti uguali e non sei da solo. Lo so, e poi anche i piccoli problemi in casa, e dunque c'è sempre il pensiero, dai, che ti martella la testa, tutto lì, mi ho messo tutto 5 minuti, così dai, a ciarameggiare, come si dice in sardo, per rilassare un pochettino, dai, tutto lì. Vabbè, Antone, parliamo di altro, dai, cerca di stare tranquillo, c'è, i problemi ce ne abbiamo tutti, chi più chi meno, ma in linea di massima siamo tutti, siamo tutti in fase di sofferenza in questo periodo, non è più nulla da nessuno, si lavora e si viaggia più proprio sul il manico del rasoio, come si dice a Sassari. Va bene, e allora Gigi, facci sognare, ma non sarà doloroso ancora, che sia la poca birra. Ehi, vabbè, qua non ci ho collegato, però no, volevo dire, si è attopolata. No, questo Claudio ce l'ho sempre avuto conservato, non l'hai mai visto questo qua, capito? Non l'hai mai visto. È un apparato che mi piace perché non prende i colpi, dovete quarzato, cioè quasi questo, l'ho detto. Ha bisogno di qualche regolazione, voglio dire qualche taratura, perché non è un apparato che c'è con 4 watt in questo, però mi va bene lo stesso, esce con 4 watt al momento, però visto il finale che c'è sotto dovrebbe essere, non l'ho toccato io, dico la verità, non ci ho messo le mani per nessun motivo, e potrebbe dare molto di più, però mi va bene anche così. Se voglio farla andare di più, con questi 4 watt gli posso attaccare un'altra scarpetta appresso e lui va, senza stare a per le... No, è un apparatino che mi piace anche questo, è abbastanza, te l'ho detto, va fino a 200, esce il canale, tucci di pomello e arrivi fino a 200, ti dà proprio 200, mi è descritto 200 canali, capito? Poi se torni indietro puoi fare due posizioni, dai, puoi sintonizzarti in due fasi diverse, poi torni indietro e però parte dal 40 meno arriva anche a 5 il canale di sotto, però parte dal 40 scendendo a meno, invece il meno no, fai 40 sotto, o ti arrivare all'1 sotto, hai capito? capito, va così. Fate dall'1, quando torno indietro c'è 40 meno, non il 40 normale, 40 meno, capite? E vai andando sulla carriera che vuoi sotto. Non capito. Vedi, anche io sto usando i barchi rinquazzati, perché sono silenziosi, escono bene, non pigliano i colpi. So che quando c'è quel verme, il discorso è quello. Va bene così. Ok, no, io adesso mi faccio da Calvino, faccio sistemare il SEAS, faccio mettere l'attacco del Tame più 3 e il Zodiac, quello base del Tame più 3. E così li uso tutti con Tame più 3, perché si sto usando tutti con questo microfono qua e va alla grande. Avanti Antonio. E io sto pensando che discorso tu, io ci sto pensando. Che discorso togliere? Ehi, ui, manco più cosa dire, sappiamo questa radio più, osati. No, io non ho fatto di non parlare, nel senso, dai, la verità che si dica non vedo l'ora, dai, che ha fatto l'associazione, perché bene o male, come stavate parlando ieri, me ne sono uscite tantissime idee, tutte da realizzare. Ecco, la verità mi toglie il pensiero da una parte, perché un pochettino mi impegna, perché non mi potrei anche realizzare, dai, fare nuove amicizie, perché no? E stai anche bene di star seduti insieme, la verità, ma vedo l'ora che inizi, questo è quello che penso. E vabbè, lì poi adesso con Antonio stiamo cercando di vedere la sede, più una volta c'è la sede, qui diventa un centro culturale, un appoggio un po' per passare le serate, soprattutto d'inverno, una giocatina a biliardino, una cosa, due chiacchiere, qualche lezione, ci faremo di elettronica tutti assieme, chi ne sa di più, chi ne sa di meno, autocostruzione, insomma, tutto quello che è il programma poi lavorativo, anche se inizialmente saremo pochi, ma quei pochi che saremo ci daremo a fare per far sì che la cosa cresca. Noi ci siamo molto da dire, Antonio, è che bisogna avere ancora un po' di pazienza, stiamo lavorando, è già tutto costituito, adesso dobbiamo vedere alcune cosettine principali, e la serie, io mi devo avvicinare all'assessorato a vedere cosa c'è, ci dovrebbe essere qualcosa anche qua vicino a casa, negli uffici della circoscrizione, perché stavo parlando con un mio amico, l'assessore, e mi ha detto appunto che si informava lui e mi faceva sapere se c'è qualcosa qua vicino a casa, qua agli uffici della circoscrizione. Stiamo benissimo, perché noi ci serve grande spazio, una stanza, scrivania, ne ho io, sedie già ne abbiamo. Adesso lo andiamo a Portobello e recupereremo. Si mette l'antenna su direttamente, capito? E si inizia a fare qualcosa come facevamo negli anni che furono. Nella sede di Porto Tolosa c'era la stazione radio, una radio con una bella radio, io già ne ho di radio baracchino. Quindi si mettono qualche base, qualche baracchino, qualcosa, giusto per stare lì la sera e niente, poi si vedrà più avanti, non ci sono problemi. Vai Gigiulca. Eccomi. Adesso sei entrato continuo, dai. Ha rilanciato a me, ma io stavo in ascolto, è entrato che sei fresco. No. Ho finito di fare un po' di carica ed ero qua di nuovo, e per il Gigi. È positivo, Sandri, positivo. No, guarda, meglio lasciarlo quel discorso, ce l'avevamo già ieri notte, ieri sera, l'abbiamo portato a lungo, Antone. Meglio parliamo tutto di altro, dai, parliamo tutto di altro e lasciamo perdere quel discorso lì, dai. Se no lo diventano nuovamente, intanto siamo noi tre, noi quattro, adesso siamo in quattro e E niente, dai, già più o meno abbiamo capito come la situazione, diciamo, no? come sono le procedure, le cose, dai, abbiamo già più che capito, Antone. Niente, Antone, i problemi ce li abbiamo tutti e ce li teniamo. Chi è che non c'ha problemi? Io ce li ho, cioè i miei e anche i grossi, e purtroppo faccio l'indifferente, capito? Cerco di divertirmi quando posso e cerco di dimenticare quando ci riesco, capisci, Antone? La vita va sempre avanti. Lo so, però almeno un po' di soddisfazione ci vuole, porca miseria, Mi sto spaccando la schiena, mi sto consumando le ossa, almeno un po' di soddisfazione, vabbè, porca miseria. Vabbè, la rotta la girerà prima o poi. Comunque, aspetto il regalo di Claudio, detto che facciamo un regalo, Claudio. Regali già arrivano, non ti preoccupare. Piano piano già arrivano anche i regali. Ma hai capito che regalo sto dicendo? Quello della radio. E allora? Devo ritirare la giattera invece che dormire uscio. Se non mi stai appresso l'avrei di fare 2 anni con la radio. Devo realizzare. A volte rimango perplesso questo. Io la verità l'ho chiamato 3-4 volte e mi aveva detto che per arrivare questo corriere c'erano tanti pezzi che gli servivano a lui e paravi. E se tutto andava bene, dice, questa settimana, ma la verità non ho avuto nessuna chiamata ed è passato un mese alla fine. Tra una cosa e l'altra, un mese. Ma Antonio, la sai una cosa? Io ho fatto una Pioncetto il Moro, di quelle radio lì, di quella lì. Non me ne era accorto, me l'ha venduta un amico, me l'ha data un amico e non me ne era accorto. C'aveva un buco enorme in mezzo dello stampato, dei circuiti, come si chiama, ma un buco, ma non c'era che fulmine. Io non me ne ero mai accorto perché non l'avevo aperta, Claudia. Non l'avevo mai aperta, me l'aveva data falsa quella radio. E quando l'ho data a Pioncetto il Moro, era un po' fuori, non era bene, invece, come si dice, bene, allora era portata da Gianni, quello lì, è salito col furgone, con la radio, gliel'ha fatta davanti, si è trattenuto mezz'oretta, gli ha fatto tutto un lavoro, e lo sai com'era perfetta questa tonnetta? Una cosa spettacolare come gliel'ha fatta quel Gianni lì, ma gliel'ha fatta davanti agli occhi, gliel'ha fatta in mezz'oretta e se l'è portata via. Tra la bocca siamo buoni tutti, io Luigi, ci vogliono fatti, non parole. Gliel'ha fatta, io non pensavo che riusciva a fare questo, che aveva questa attrezzatura, tutte queste attrezzature per fare questi lavori. Eppure mi ha detto che gliel'ha fatto e poi l'ho ascoltato, ma la grande quella radio lì. Hola. Ma infatti ti sto dicendo, ci vogliono fatti, non parole, capito? Fatti. Quando uno è bravo, perché Gianni Ditti è molto bravo a fare queste cose, si impegna, è una persona capace, perché mi ha detto anche Carlo di Chiaramonti, te lo farò avanti, ma se non te che tu prendi una radio e lasciala lì, con un certo tempo te la faccio. Capito? Non si fa così. Comunque, non lo so, vedi tu. Io per conto mio, se sei andato alla ripresa portata via a Luigi, l'avrebbe data cosa a Albino, sarebbe già messo a posto con la radio. C'è la fa allineamento, non c'è niente da cambiare, lui, cazzo, non si butti in una radio un mese va a fare un allineamento. E attacca il dato rispetto e fa l'allineamento. Se c'è qualche componente da cambiare, lo cambia al momento che l'allineamento ti richiede, basta. Cosa c'è in chi vi attira molto? Dica, non è tempo e basta, perché il tempo ne ha pochissimo, questo lo so, però non è che, però me ne sono fatto così, poi ognuno di voi fare quello che vuole. Io di Galaxy Atomico ne ho fatto avere uno, in tutta la mia vendita di radio, ma così bello e così nuovo io ne avevo mai visto. Tanto è vero che chi ce l'ha se lo tiene molto stretto, ma è nuovo però, non è stato fatto mai niente. Lui ha avuto un problemino lui personale, l'ha portato, l'ha rifatto e ci diceva, quando la radio è nuova e funziona bene, bisogna lasciarla stare. invece anche con l'abbinamento MV più 5, molto, molto bella come modulazione, però lo usa pochissimo, usa sempre la stessa radio, ma è molto bella quella, quella è veramente bella, oh, Antonio. Fatto per io, non ci mi dissassari, è veramente nuova, penso che non ce ne siano di Saturn Eco in circolazione come quella lì, doppia nuova di pacca, era di un radioamatore di Olbia. Io l'ho vista, sapevo che lei serviva, gliel'ho proposta e l'ha presa al volo. Ma nuova, però, nuova, ci metteva la scatola ed era come da negozio, bellissima. La grazie non ne ha, era tranquilla, ma ha detto per una piccola revisionata, ha detto molto bravo, lo portiamo lì. E ogni volta che telefono dice che devono arrivare questi pezzi, questi pezzi, questi pezzi, perché te la faccio da altri apparati, dice, e doveva arrivare questo corriere, tutto lì. E se tutto andava bene, ma prima di Taragosta, è possibile? Sì, sì, dice, vai tranquillo che dovrebbe essere tutto a posto. E siamo domani giovedì, ma non ha avuto nessuna chiamata. Siamo tra l'altro amici, però io te ripeto, se fosse stata la mia me l'avrei già presa e portata via. Lui non è bravo, attenzione, non ha tempo, è molto impegnato, quindi è chiaro che la priorità alle cose magari superiori e quello lo fa in un secondo momento, capito? Come tutto qui, però siccome io dell'aria ne ho tante, già le ho viste, se avessi avuto quella che mi interessava l'avrei già ritirata. Vabbè, facciamo girare avanti, Sandro, ripeti. Scusa un attimo, ma che l'avresti portata tu? Altra gente c'è a Sassari che la ripara, non andare così tanto lontano per dire. No, ma Luigi ti può rispondere in merito, perché non è che stiamo andando in America, noi siamo andati a pranzo, siamo andati e tornati tutto in mattinata, ma sto dicendo, ci vuole mezz'ora andare a bordo, c'è un amico nostro, mio, di Luigi, che è molto bravo, si impegna moltissimo con questi baracchini, con queste cose, credo per fare un lineamento e per cambiare due componenti, se ci vogliono, non penso che se l'avrebbe tenuto un mese Albino, no Luigi. Anche lui sta lavorando questo periodo, sta lavorando e fa qualcosa la sera così quando rientra. Però sto dicendo, ma anche cosa fate per gli allineamenti? Anche Gianni Vittili. Però se poi mi sta dicendo che ma questa radio funzionava, che pezzi ci vogliono in questa radio? Se funzionava, voleva solamente allineata, fatta delle regolazioni, ma attaccato allo strumento, l'oscilloscopio, come si chiama. E per staccarli quello lì non deve se c'è quel fo, ma non penso, perché anche Pizzi quella persona ne ha, perché non è, a parte che è giusto che è all'altezza di farlo, attenzione, dove l'hai portato è all'altezza di farlo, non è una persona stupida, attenzione, Antone, no, che, come dice Claudio, forse ha altre cose per le mani, ha trovato qualcosa che non ha trovato qui a Sassari, qualche cosa che vuole sostituita, che qui a Sassari non l'ha trovata, l'ha ordinata da fuori, e è un altro paio di maniche, può essere anche così, se ti ha detto che lei sta aspettando il corriere vuol dire che ma c'è qualcosa che può essere anche qualche condensatore, qualcosa che non ha trovato qua, capito? Boh, vediamo un po' cosa ne esce fuori, dai. Per pazienza, dai, poi già non è che se la tiene due anni come ha fatto quello di Sicilia, no? E ancora le assistenti, trasferisco, è a posto, trasferisco, sono passati a due anni. Fisci, ero andato per la mia pigliata, tranquillo, che la radio è la mia, tu me la restituisci, è vero qua. No, beh, Antonio, non ti disperare adesso, io parlo per me, ho detto se fosse la mia l'avrei già portata via, capito? Anche perché io lo stesso avevo un allineamento da fare e un controllo generale di un HF e gliel'ho detto proprio a lui e ho detto se me la fai subito te la porto, mi ha detto no subito non te la faccio, è rimasta qua ed è ancora qua, non me ne frega niente, già arrivato il vecchio, quando c'è tempo la spedisco fuori. Cosa me ne fotte? Riprendi il santo. Ok. Ciao. fine, me l'ha spusciato, ok. No, ok, stavo un attimino vedendo perché mi è arrivato anche il parler, però su questo apparato non lo voglio sentire, addirittura lo rifiuta. Lo rifiuta come microfono, cioè tu inserisci e rimane inserita la portante, non senti la ricezione, cosa fa? No, diciamo che come schiacci la portante c'è tipo un innesco, capito? Non lo so, io il tandem più 3 sulla RAM 48 modificato lo uso, basta che non inserisco l'ecco, tutto chiuso, cioè non passo la calamita e lui a posto, se passo la calamita devo disinserire per l'ascolto, siccome per l'ascolto non si può disinserire lo innesca, perciò lo devo usare completamente chiuso, cioè non devo passare la calamita, sai, questi RAM 48 come sono fatti. Io guarda, te lo metto, senza calamita è uguale a questo, non cambia assolutamente niente, la modulazione è sempre uguale, sempre bella, forte, però se passo la calamita che parte il turbo, inizia tutto a innescare. Scusate, oh Flavio, no, sai cosa è il problema suo, cos'è? Quando lui l'ha messo senza schiacciare la portante, e la polarità del microfono sono di contrario, quello ce l'ha del magno, ce l'ha di contrario dell'area 48 del Midra, o viceversa, bisogna vedere la polarità che c'ha il Tarme più 3, che quanto sia, a 4 fusi e 4 furi o di più ne ha questo Tarme più 3. A 4 è come quello c'hai tu. Allora c'è la polarità al contrario di quello che tu hai preso, di quello che ho detto, di quello che tu ti sei fatto arrivare, volevi provare dentro. La polarità è al contrario, hai capito? Oh Sandro, ecco perché se tu l'attacchi, se no l'innesco lo fa solo quando schiacci la portante, invece tu come infili cosa innesca, quando infili tu lo spinotto, e la polarità al contrario, hai capito Sandro? No. Allora guarda, adesso l'ho inserito. Claudio, poi mi dirai com'è. Allora, come disco check va bene, è come schiaccio la portante che fa un piccolo innesco. Però questo lo lascia. Cos'è il Tarme? Il Tarme più 3? Preso. Non so se è il Tarme più 3, questo è il Tarme più 3. Forse lo sta collegando, non era il Tarme più 3. Non capisco che Sandro sta sempre cambiando, non ho capito cosa ha detto, se quello era il Tarme più 3 o lo sta collegando tu? Allora, Claudio, questo è il Tarme, questo è il Tarme 3. Mamma mia, io non capisco niente, è tutto... tu lo hai capito cosa ha detto, capito? Più 3, questo qua è il Tarme più 3, così hai detto? Sì, ma è troppo compressa la modulazione però, troppo compressa. Non è compressa e confusa, altrimenti non si intende a volte, si sentono solo rumori e fischi blu. L'ascolto va una cosa impressionante e non va più bene. Aspetta un po', Claudio, adesso si sente? No, adesso si sente la voce, sì, la sento, ma non c'è amplificazione. Allora, non c'è amplificazione. Allora, adesso c'ho il mic che è qua a mezzogiorno, adesso lo sto abbassando. Adesso è a 2. E la voce già si sente, però è molto cupa, non è da tarmere. Evidentemente c'è un disaccordo, c'è un accoppiamento che non va bene. Cosa dice lui? No, non si può accoppiare, gliel'ho detto da prima che ho un microfono da tavola su un apparato che si è predisposto così amplificato con parla ascolto e via dicendo, non può mai andare, bisogna che sia tutto normale, che non abbia eco, che non abbia parla ascolta, perché se no fa subito, perché per l'ascolta stesso se te lo fai fare l'innesco subito. sempre una modulazione troppo nasale, la modulazione non è limpida, non l'ho sentita mai limpida, è troppo compressa secondo me. Ok, vai, adesso sono con il suo macchino male. No, non risatisce, proprio. Evidentemente questo è nato soltanto per il mic suo, tutto lì. Sì, ma scusa un attimo, però secondo mio modo di sentire è troppo grossa, tipo la voce, troppo grossa e compressa. Non è limpida la modulazione, da parte mia, per mio modo di sentire. Ma Antonio, tu stai dicendo adesso, attualmente? Sì, esatto, adesso. Claudio, tu come mi ascolti? No, io, Antonio, ti posso dire che così esce bene. Evidentemente la tua radio che ha una recezione diversa, non lo so. Io così lo ascolto benissimo, Sandro, col microfono suo normale, sì. Mentre invece se attacca il 3+3 non va bene, c'è da invertire qualche filo lì, Sandri, capito? C'è da invertire qualche filo, avvicinati con la radio a Luigi quando ha 2 minuti, lo vedete assieme che lui con le cose se le ha sempre fatte. Però così sta uscendo bene, Antonio, la lavorazione è buona, eh? No, per quanto del segnale, il segnale radio c'è tranquillamente, però sento un dare il dubbio. Io lo sento, forse che sia anche l'apparato che ho io, è troppo cupa la modulazione, capito? Troppo cupa. Adesso per dire, mettendo in paragone la tua e quella di Vulcano, è limpida. Io nella sua modulazione la limpidezza non gliela sento. Microfono, ascolto, capito, è nuovo lo stesso, non toccare nulla, non toccare nulla, per carità, non toccare, perché non va bene su quella radio quel microfono, lo puoi adoperare in altri posti, ma su quella radio no, avviene, è nuovo numero, è arrivata oggi la radio. E come si chiama quella radio, Sandro, che volevo guardare una cosa? Allora, si chiama Omega Force S45. Non toccare nulla, le regolazioni possiamo fare da quel pomeriggio eternamente, ma non togliere confetti, non toccare nulla, perché la radio è nuova, Sandro, non toccare nulla, il consiglio che ti do io. Questo volevo dire da parte mia che la modulazione c'è, segnale radio c'è, buono, però magari, ripeto, forse che sia il mio apparato, non lo so, non me ne intendo, forse che sia anche l'apparato che ti faccia sentire in un modo diverso, però mettendo a paragone, anche se è un pochettino stupido, la modulazione di Sparviero e di Vulcano è limpida, la modulazione limpida, tranquilla, pulita. Io la sento la sua molto grossa e compressa, capito? L'impidezza io della sua modulazione in questo momento non gliela sento. È positivo, sarà perché questo c'ha tre tipi di tonalità. Io questo apparato posso ascoltare con tre tipi di tonalità, lo sai, sarà perché c'era quella più tonalità più bassa, più limpida, ad esempio della radio, più non lo so. Questo c'è un bella diciamo, c'è una bella cosa, diciamo, come altoparlante, non c'è neanche la colonnina esterna, perché c'è la bella veramente questo apparato, proprio un'armonia quando ascolto le modulazioni, proprio bella, fa una radio, sento la radio bella quando dalla colonnina, dai. E mi piace, infatti c'ho sempre questo attaccato, perché mi piace, perché ascolto bene, proprio bene, riesco a ascoltarle meglio le radio qua. Sì, per me non lo so, è quello più vicino a me, tu sei a Ussi, non lo so, che sia compresa proprio o no, non la sento qua. Sandro, ci sei ancora? Via, sono qua. Non lo so, evidentemente. Evidentemente, diciamo, la recezione di Antonello, adesso non so che cosa stia usando Antonello, evidentemente la recezione di Antonello, diciamo, è quella che è, boh. Dimmi una cosa, ma adesso vuol dire il massimo di fatti tu, Sandro? Adesso sono al massimo. Ci riesci a farlo scendere a 3 watt quella radio? A 3 watt, ci riesci? Ma può scendere a 3 watt? Sì, allora, aspetta un attimino, eh. Adesso sono a 10 watt. Ok, guarda, adesso sono a 1 watt. Adesso sono a 3 watt, oggi sì. Conferma 3 watt. Modula 3 watt. Ok, ok, vedi un pochettino. Infatti l'ago dello smitter è impazzito. Come adesso, Antonè? Allora, adesso prima era Santiago 9 e 2.5, adesso è Santiago 7 e 2.5 e lo sento molto, molto meglio. Più bella la radio così, più forte pure. È vero, molto più forte, però non compressa. Sandre, il discorso io, quello è anche il magno, tu. Il magno, il segreto del magno, non è metterlo al massimo dei fatti, non serve. A 3 fatti. Tu guarda a me l'8001, 2, ne ho 2, tutti. Io questi, ho questi che hanno questo modulato, ce l'ho a 3 fatti, 2 fatti e mezzo, 3 fatti. Il segnale si darà appena appena di meno, ma la radio è molto superiore, arriva più forte, capito? Adesso la radio è molto più bella, più corposa e più chiara, è più forte, ti dico, si è abbassato leggermente il segnale, ma la radio è più superiore di prima, di quando la metti tutto al massimo dei fatti. Ricordati questo, Sandy, che a 3 fatti fa meglio, meglio di essere al massimo dei fatti. Ok, ok, ok, allora aspetta un attimino, una piccola prova. Cosa ha cambiato? Aumentato il segnale così. Sì, il segnale è aumentato, ma la modulazione come prima. Il modello che stai usando è quello che c'ha un display tondo blu, questo apparato. No, il magno c'era il display blu e diventa arancione. Il magno, però quando ho capito è come il magno questo. Ma questo c'è il coso che spinge il top gun, c'era il top gun, come che si chiama, Sandro, c'era quello lì. Allora, aspetta un attimino, perché io siccome ho il mic gain a manetta. Ok, allora, vediamo un attimino. Io adesso ho messo il mic gain a mezzogiorno, con tutti i suoi watt. Adesso cosa ho, com'è? Bellissima! Come? Ah, troppo di lusso! È vero, va bene. Però la radio, se la metti a 3 watt, la radio è più forte come era prima. Se tu scendi a 3 watt, la radio è più forte. Adesso è veramente bella. Io, ma canto mio, l'avrei lasciata così. È molto, molto limpida. Adesso sì che sta uscendo veramente bene. Allora, probabilmente era tutta la regolazione del mic gain, perché il mic gain, allora, per dire, in questo passaggio è tutto aperto, in questo passaggio adesso è, in questo passaggio adesso è a metà, capito? In questo passaggio a metà la radio è molto più bella, è molto più bella, però se tu la abbassi invece di infatti è ancora più bella la radio. Ok. Allora, aspetta un po'. Ok, guarda, così sono a 5 watt. Avrei abbassato un po', eh. Abbassa sempre, abbassa, lo chiude quasi tutto a zero. Portalo a 2 watt questa radio, la voglio sentire a 2 watt. E poi regoliamo il mic gain, portalo a 2 watt. Allora, portiamo a 2 watt, allora aspetta un attimino, te lo faccio con lo strumento, eh. Ok, ok, a 2 watt, lo logicamente picchi positivi non indifferenti, e Mike in la maletta, tutto aperto. Oh, basta per appena Mike Gin. Allora, portiamo a Mike Gin a 8, così a 8. Scendi, scendi. Così Mike Gin è a 5. Boh, cosa mi dici tu, G? Molto appena appena? Però vedi, la radio è forte, lo sai, oh. La radio è un bel forte, capito? È un bel forte. Però è chiara, hai capito? Tu devi, adesso mi devi guardare, sì, con 2 watt, giusto Sandro? 2 watt, tu metti e guarda a vedere i picchi a quanto salgono modulati. L'importante bianca c'è 2 watt, giusto? Modulati quanto sono? Ok, allora 2 watt portante bianca, picchi di modulazione sale oltre 20. Hai visto? Vedi che quella è già fatta, quella lì c'è tu adesso, con quei picchi lì, a 2 watt, però gli attacchi un linearetto, quella cosa impazzisce. Vola! Aste, posso fare un esempio io per dire mentre moduli, no? Cosa succede? Se tu non moduli, qua nel mio smitter mi indica, nella 68, è Santiago 6, radio 5, senza modulare. Quando moduli fai, Santiago 8 ora fa, da 6 arriva a 8, radio 5. Tutto va... Diciamo che tutto questo è tutto da scoprire, guarda, è tutto da vedere. Perché adesso questo parlava di Top Gun, che sinceramente non ho capito dove è questo Top Gun. Ma ce l'ha quello? No, i picchi di modulazione adesso è inserito. Tu ce l'hai inserito, sennò quei picchi di modulazione non avresti avuti. Hai capito? Se no sarebbe stato inserito quello lì, non salgono quei picchi di modulazione, capito? Non ha solo, il Top Gun è entrato in funzione, il tipo doppio modulatore che c'è dentro è in funzione adesso. Ho capito, no, perché? Allora, ci sono vari, c'è un tasto qua dove mi dice, a parte l'SVR CAL, dove mi dice MTS, adesso c'è MTS, adesso l'ho cambiato su un altro tastino. Allora, io cambio vari tastini, vedete un attimino se c'è qualcosa che cambia, perché senz'altro qua c'è qualcos'altro da inserire. Allora, ok, vediamo un po', ok, vediamo un po', questo è un altro passaggio, ha cambiato qualcosa Gigi? Aspetta, questo cos'è? Questo mi sembra che ha cambiato la radio, è aumentato di coso, prova, non ho capito, prova a vedere. Allora, questo c'è un tastino centrale, questo è, aspetta che non lo vedo bene, non ricordo come era il smaglio, però lì è già inserito, guarda se i picchi salgono sempre quasi a 20, o se rimane a 2 watt e si muove per appena lago. No, i picchi sono molto massimo da 2 sale a 5, allora vediamo un po', da 2 a 5 sempre, ok, vediamo un po', ecco, adesso salta da 5 a 10, lo scatto da 2 a quasi a 20. Sì, è cambiata la radio, molto più rossa e più potente, cambia proprio la radio completamente, più forte, enorme, una cosa impressionante. Quindi in effetti questo dovrebbe essere il Top Gun, come lo chiamano loro? Lo chiamo io, sì, quello lì, vedi, ed entra in funzione il doppio modulatore, e finge, quello ti dà, vedi che la radio, infatti, secondo me, se tu così vai al massimo, non è è bella la radio. Questa funziona con fatti e fatti, come la dobbero io. Tu guarda in camion, io dobbero con 2 watt e mezzo, 3, massimo, proprio quando esagero porta 4 watt. Adesso questo che ce l'ho qua, che ho io qua, è già regolata 3 watt e mezzo, quelle che adopero io modificarsi. Io il camion lo adopero con 3 watt e mezzo, staccato, senza lineare. Adesso 3 watt e mezzo, e può andare anche a 30 watt quell'apparato, capito? Sotto 2001, però non va bene. E io lo tengo a 3 watt e mezzo e c'ha picchi che arrivano a 20 di modulazione, come fai quello tuo, e tu gli abbini il lineare. Ma lo sai come lo fa girare bene la radio e come sale? È una meraviglia. Ho capito. No, funziona proprio picchi di modulazione. 2 secondi io c'ho ancora quella famosa spettina che mi avevi detto tu. A me mi bastano un paio di minuti e la sto mettendo sopra. Aspetta un po'. Prova la vedere. Ma meglio, vero Antone? Molto, molto meglio. È troppo compresso. Non so come diceva la pubblicità. La potenza è nulla senza il controllo. Dunque era troppo tutto da regolare, era troppo compresso, io lo sentivo molto compresso. Allora, adesso è tutta un'altra storia, ma fammi capire, in questo apparato sta utilizzando il suo mic originale o qualcosa di amplificato? Il suo originale, Antone, il suo originale, capito? Sembra amplificato, una cosa allucinante, è un bel apparato, Ma l'ecco c'ha tutto con quell'apparato lì, cosa non hai capito? Ed è lui deve ancora scoprire, capito? Lo deve scoprire. Io ho avuto il magno, non quello lì, ma ho avuto il magno, ma quello è come il magno, a quanto ho capito. E quello è micidiale, che bello, eccolo. Quello c'è di picchio, ma se ci arriva a 20 watt così, prima al massimo va 40 watt quello lì, al massimo va 40 watt. Nella stessa casa del magno lui. La stessa cosa del magno, ma invita adesso cosa gli ho fatto fare, ho fatto scendere a 2 watt, Claudio, gli ho fatto inserire le cose e arriva a picchi di 20 watt, un 2 watt. L'hai ascoltata adesso la radio ultimamente? Sì, vi sto ascoltando, non c'è problema, continuate pure, già sono qua io, sto facendo una cosa. Ma lo stavo guardando al computer, è un po' più scarsino il magno, magno mi piace più esteticamente, però è della casa lo fa il magno lo stesso, c'è scritto sopra Omega Force Magnum, quindi la stessa casa costruttrice, solo che una l'ha marcato Magnum diretto e questa c'è il marchio Omega, un po' più scarsino Magnum, è molto più completo, una verità molto più bella, molto più bello, esteticamente è più bello il magno, però se le funzioni sono quelle, si scordi di mettere il tame più 3 su quella radio, io ci ho provato 1000 volte, proprio col magno mi aveva detto non sono mai riuscito, usavo sempre il microfono normale, poi avevo chiuso tutto l'ecco e avevo messo l'M300 e aveva migliorato dal giorno alla notte, poi tira giù il radio a chi non me ne fotte più nulla. Io sono qua che vi ascolto. Ok, allora aspetta un attimino. Ok, allora Gigi, vediamo un po'. Io adesso ho attaccato quella scarpetta che mi ha rovinato tu, Com'è? So se il parere te lo faccio dire da Claudio. Te lo faccio dire da Claudio. Io ne sono, io sono le 10:25, il parere che io do a Sandro, oltre che tu lo incazzi, è quello che non deve toccare niente, se lo lasci così domani te lo stesso parere, ma sono convinto che domani esci ancora diversamente, meglio di così non si può uscire, cosa ti devo dire? Lo sento tanto bene, la verità, Lo senti bene? No, la verità era meglio prima, non lo so, no, non mi piace come reazione, non sento la limpidezza della modulazione. Io non so oggi come mi senti a me, se è pulita, limpida, non un tuo parere. Io a lui la verità adesso lo preferivo prima senza la tuffetta, alle mie orecchie. E aspetta, facciamo il altro passaggio, fa un altro passaggio, sa? Perché l'ho ascoltato benissimo, ma bene veramente. Prova a vedere, sa? Ok, dai. Considera che adesso sto pilotando con 2 watt, C'ho picchi positivi a 70 watt, picchi positivi a 70 watt. Allora, vediamo un po', io adesso cerco di, vedete un attimino questo passaggio, allora, in questo passaggio qua, e in questo passaggio qua, allora qua c'ho picchi a 50 watt, e qua c'ho picchi sempre a 50, qua c'ho sempre picchi, ecco, qua stanno aumentando i picchi, picchi a 70, picchi, Gigi, lo fisco addirittura picchi di 90 watt. Poi non riprendo. Allora sappi che il mio ha 48 con 2 watt di pilotaggio, esce meglio di darle tutta la potenza, quindi a voi tenetore poche parole, lascialo con picchi a 70 watt e non lo toccare più. Questo è il mio consiglio, poi sei libero di fare quello che ti piace, perché meglio di così non si può uscire. Il mio Alan 48 regolato da Luigi a 2 watt e mezzo di pilotaggio mi dà 200 watt col VV131. Ti ho detto tutto, di picco, di modulazione, picco, non di portante. Di portante mi dà 40 watt, però di picco modulato mi dà quasi 200 watt. Ti ho detto tutto, queste radio con il modulatore Colt sono fatte così, più watt le dai e meno vanno bene, meno watt le dai e più pompano. Questo è quello che mi ha detto Luigi e questo che ti dico io. Perché qui c'è il doppio modulatore, lui l'ha inserito adesso il doppio modulatore, a 70 watt va ancora meglio di metterlo a 50, va ancora meglio Sandro, e poi è un linearetto da 70 quello, vedi la turba da zamme, Claudia, ed è da 60 watt, è il doppio modulatore che spinge, che le fa salire i watt, e capito, lo fa impazzire, però fa girare bene la radio, è bella, così è micidiale Sandro, bellissima. Poi Antonello, un problema di Antonello, a 70, con i picchi di 70 la radio io, e tu sei più vicino a me, anzi lontananza dovrebbe essere ancora meglio. Non lo so Antonello, ma lo ascolti sempre male tu? No, il discorso che lo ascolto male, come ti posso spiegare, no, per il mio modo di ascoltare la verità, non lo sento bene, non... io lo sento troppo, rimane troppo cupo, affogata la cosa, capito? Qua ti posso dire che c'è una pompa di un pollice, gli fa entrare una quantità di acqua più superiore, capito? E dunque non ci passa. C'è che capire un po' il mio pensiero. Dunque alla fine io lo sento troppo compressa, non è la limpidezza della modulazione, non gliela sento. E la sento quando l'ha messa a 2 watt col Michigan a metà e senza scarpetta, è perfetto, più bello di così secondo me, questo è il mio modesto parere, per carità, poi ognuno giustamente fa quello che si sente di fare, però senza lineare io lo sento molto meglio, così a modo mio non mi piace come modulazione. Aspetta. Ok, allora aspetta, ancora niente di strano, io non voglio dire che diciamo adesso il tuo apparato che stai usando attualmente diciamo non serve o questo e quest'altro, niente di strano che adesso la tua ricezione magari è così, diciamo, mi senti diciamo in questo modo qua, capito? Tutto lì? Allora aspetta un attimino. Aspetta un po'. Ok. Vediamo un po', metti. Cosa succede? È un bel eco, però è sempre la solita cosa. È un bellissimo eco. Prova a mettere l'eco come ti ha detto Gigi, a 2 watt. e direttamente il bicicchino a metà, a mezzogiorno, senza aver attaccato a quella scuola, è troppo accontento a vedere, ma non troppo accentuato però. Ti do ragione, col 48 non so più come mai, ti sentivo anch'io così, ho attaccato là al 48, questo è il 48, e ti ascolto così, come dice lui, non limpida limpida la radio, invece con l'altro credo sia un'armonia bella. Ok, passo all'altra. Sì, hai mai messo questa cosa che rispetti adesso. Ok, dai, lo eliminiamo e da vedere. E da vedere un pochettino meglio, dai. Cosa ha detto Clari? Clari è durato un poco comunque. Se cosa ha detto domani e domani c'è di mezzo cambia. È durato un poco comunque Claudio, eh. No, ma no. Io vi sto ascoltando, no, non intervengo perché no. Con Sandro l'apporto d'amicizia, non lo voglio rovinare per questo cazzo di baracchino. Lui può durare 2 minuti e poi deve rimettere il dito perché altrimenti è più forte di lui, capite? Io già da 2 ore fa ci ho permesso una colla lì e non l'avrei toccato più, questo è il mio parere, quindi continuate pure, ma vi ascolto volentieri, no, non intervengo, no. Cosa dire, perciò, ma preferisco rimanere zitto, eh. Preferisco rimanere zitto, fate voi, io sono quello che vi ascolto. Sì, ma lui, allora, sicuramente lo sta scoprendo, perché lo vuole, lo sta scoprendo, perché ce l'ha appena oggi, però sempre si deve ricordare com'era la posizione prima, quella di poco fa. Lui giustamente sta facendo prova che trova le regolazioni anche dell'ecco, è giusto che trovi anche la regolazione giusta dell'ecco, al limite questo pomello lo gira e poi non so se c'è qualche pulsante che lo attiva e lo disattiva, ma c'è il pulsante che lo attiva l'ecco, Sandro, o girando il pomello si attiva. No, c'è la... Allora, questo è come almeno il vostro giudizio con la scarpettina, per intromettere diciamo l'ecco c'è il pomello diciamo di apertura e chiusura, tutto lì. Allora, quando vuoi fare bella figura, proprio vuoi fare bella figura, tu lascia questa spegna, ti fai i puntini, fai qualcosa, lasciatelo così. E così fa una bella figura, perché così va bene. Poi se vuoi provare, lasciando così come così, vuoi cercare l'eco, trovare un pelino d'eco, come funziona l'eco, non lo so, prova a cercarlo. Però senza spostare più i fatti, queste cose così, non spostare nulla. No, i fatti vanno benissimo, adesso guarda, c'ho picchi di modulazione mi stanno salendo. A 90 watt OCC, e cosa vuoi di più? Positivo. Con questa radio l'ascolto bene, Gab. Con il 48 non è chiara come questa, chissà perché. Ma adesso bisogna vedere. Antone, che apparato stai usando? Alan 68S, 2 mesi di vita, neanche. Evidentemente, vedi, anche Gigino per dire ha fatto la prova e l'apparato apparato, magari la ricezione è diversa, tutto lì. Cosa succede, Antonio? A volte si attaccano il chivo e si mettono in 2, 3 con il chivo a parlare cose, loro si ascoltano benissimo, a volte attacchi 48 questi baracchinisti, no? Capita. E tu non li ascolti e senti un po' che non è chiara la radio, non è così. E loro dicono, no, io la sento perfettamente. E ha ragione, perché sono degli apparati quasi simili e sono più compatibili. E a volte io ascolto col 48 qualcosa così. Non con tutti, perché secondo il 48 come è fatto, ma ascolti bene tutti, ma la sorte. Secondo come è fatto, ce l'avevo in camion. Questo che c'ho qua, che non è mio, è di mio nipote, questo ho notato che molti non sento bene. e questo è il problema anche suo della questa parte, perché il 48, l'altro 48 mio, quello fatto a Napoli, ma non ascolto bene sia Kivu, un coso, ma ascolti come un'armonia bene, dipende da apparato a apparato pure. Adesso ho provato io il 48, l'ho provato e non lo sento e non l'ascolto bene, non è che non ascolto, non è bello chiaro come l'ascolto con questo. E sicuramente ascolta da parte tua il segnale mio, com'è da te? Ma se devo guardare nel 48, perché questo vuole regolato, lo deve basso come coso qua, e lo devo regolare, non l'ho toccato io. Hai capito? Io tocco quelle degli altri. Non ce le metto le mani dentro. Riporta quelli più spinti. Aspetta che te lo controllo, Tony. Te lo controllo nell'altro apparato però. Vabbè, no, vabbè, come radio, vabbè, no, come radio è abbastanza comprensibile, è tutto lì, poi il segnale non ha nessuna importanza per quello. Come modulazione, dai, un tuo giudizio. Oh, allora, vediamo un attimino. Antonello, adesso come mi ascolti in questo passaggio qua? Bello e tranquillo. Santiago 925, una bella radio pulita. Ok, dai. Vabbè, consideriamo che adesso diciamo siamo passati su un altro pianeta, dai, tutto lì. Va bene, a me piace questa modulazione. Pulita e tranquilla. Oh, a te che ti controllo il segnale, Antonio, dai, prova a vedere. Eia, allora mi ha detto già sei tu, porca miseria. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Santiago 9 con picchi a 9, 9, 5 quasi, dai, quasi 9, 5, la radio è di 5, va bene, il segnale è questo. Per comunque bella, nel senso pulita, tranquilla, non satura, limpida, dai, a me mi interessa quello, che vada bene come modulazione, nessuna compressione, compressa, nulla, zero. No, negativo, no. No, no, no, niente, niente. Ma questa perché è più forte dell'altra, Guarda, la tua è tutta un'altra cosa, è tutto un altro minestrone. Usi, Dio, dai. Questa è sempre una 48 comunque, però si va vicino. Ma i baffi fanno fischiare. O si avvicinano i baffi a cosa fischia? Fischiando, Tavi. Ma i baffi mi fischiano. Questa è la tua modulazione. Ogni persona c'ha la sua personalità, no? Questa è la tua. Positivo che cavarocero. E beh, questo è il baracchino mascolo, capisci? Antonè. E questo già è bello, sì, Questo è bello. Un attimo. Ok. Io ne approfitto, vi saluto, buon proseguo, ce la risentiamo a tutte le migliori. Ciao Gigi, ciao Antonè, alla prossima. E io, buon divertimento. Ciao Sandro, dai, tutto a domani, se coincide, ciao. Ciao Sandro, domani, ciao. Buonanotte, come state, tutti bene? Ciao Po! Saluto a tutti! Ma se si è svegliato? Ma io non ci sto studi questa sera. Mi hanno chiamato per piazzare un ricevitore digitale terrestre. Capito? Da quelle là. Ma dove ti ha detto le scale? No, arrivavo quelli che venivano dalle scale. Che l'hanno fatto l'altro giorno, hanno dovuto cambiare casa quelle, perché gli hanno sigillato. Ho capito, ho capito. Va bene, va bene. Avanti Antonio. Farò di uscire. Eia, niente. E cosa che ti dica, domani ci vai a lavorare oppure sei a riposo con Pugno? Sono gli attimi, se non mi chiama a lavorare, già lo chiamo per abilitinati, mi rimane 300 euro, quindi mi va bene lo stesso. Sono sempre a credito io, mai a debito, quindi mi tocca due settimane di lavoro, auguri del basta avanza 50 euro gradi. E piano piano alla fine la moda di tutti. E niente, e tu a Gronte oggi non l'hai sentito? Sì, l'ho sentito, ma mi sembra che stato aspetto, poi mi hanno chiamato, mi hanno telefonato delle amiche, sono sceso giù, sento solo tipo veloce, gli ho dato le cose. Aspetta un attimo tempo, metti qualche rompi coglione, aspetta. Chissà chi è. Io già aspetto il telefono. Basta, buongiorno che squilla. Uia uia. Vabbè. Lasciamo la sigaretta. Poi spengo tutto anch'io, ma ne vado a mano. C'è un bel freschetto. Ci riposiamo. Noi siamo a bocca. E anch'io me la prendo la sigaretta, ti seguo. Ti volevo dire, comunque la sera stai rientrando presto, non stai facendo tardi in questi ultimi giorni? No, Antone, siamo in pochi, c'è molta gente in fede, quindi mi faccio le cose principali e poi me ne rientro a casa. Sto uscendo presto per la mattina, insieme a me, sono già in movimento. Devo entrare alle 8, in anticipo sempre di un'ora, un'ora e mezzo, proprio per sbrigarmi le cose prima che arrivino i rompiballe, a scocciarmi al telefono, da qui e poi là, tutta la mattina che corro a destra e a sinistra, prima l'ATL, poi l'ARPAS, poi NOE, poi i referenti, e poi qui e poi là, e tutta la mattina che salto da un impianto all'altro, ho combinato un accidente. Io perché durante la mattina, diciamo, quando viaggio per Alghero, vado sempre, diciamo, il furgoncino, quello rosso, della Fiat, dovrebbe essere Fiat, che passa per la strada, diciamo, di Itiri. Sicuramente c'è qualcuno di Itiri che parte da lì direttamente per andare a lavorare. Sì, a casa c'erano la macchina. Quello è un altro mio collega, si occupa della zona di Itiri, cosa fa quello Itiri? Se fa solo Itiri, tutti i sollevamenti e gli impianti, oppure se fa anche Muro, se Cargè, che quelle zone di adesso non mi ricordo, non voglio sbagliare. Comunque anche lui c'era a casa la macchina, poi c'è l'altra di Alghero, che sicuramente la trovi, se fai con l'altra, la trovi spesso sulla tre due mari, perché fa tutta la zona industriale, poi entra in Alghero e ce ne sono solo nella tra Protose e Stintino, diciamo Protose e Stintino, Avvenia qua Ottava, Sassari, Alghero e tutta la Bassa Angrona, ce ne sono 120 di quella macchina in giro, tutte uguali, nuove nuove. E ce n'è, e poi due Aussi, uno di Sospiano e uno di Literai, se non sbaglio, sì? Esatto, che sai anche chi sono. Eia, infatti l'ho visto da poco, da poco, mi è capitato, ma è questo, ho detto, lì sta lavorando. O c'è da poco, sì, un tipo alto, magrulino, diciamo magrulino, normale, un po' spilungone. Ehi, ma te uno non le altre, stiamo facendo la squadra, se fra un po' ci iscriviamo in prima categoria. Ce ne sono due, quattro, sei, ce ne riusci. Diciamo però di questo qua c'è da poco, non c'è da molto, diciamo, lavorando in azienda. Questo è entrato quando praticamente, allora, è entrato a il primo giugno. Fortunato. Il primo giugno è entrato anche me, purtroppo sì. Però hanno già una qualifica specifica che è quella che richiede l'azienda. E poi sono lasciato perdere. Da noi non passa mai nessuno tramite l'ufficio di collocamento, tutti strisci a culo solo, lasciatelo dire. E alla fine mi funziona così purtroppo da tutte le parti, però cosa fai? Cosa fai alla fine in questi tempi? Sei costretto a farlo, a leccare purtroppo. Anche la servita io non l'ho mai fatto perché non è nel mio DNA, però purtroppo molta gente necessita, è costretto a battersi le mutande, purtroppo. Ma non è neanche che vanno a leccare, non hai capito, non le vanno neanche a leccare, perché a me non mi ha leccato nessuno, qualcuno che me l'ho piazzato, ma sono sono persone che ho conosciuto, che hanno lavorato con me a Porto Torres, alla Tibetana, eccetera. E non è che mi hanno beccato, mi hanno solo chiesto, anche stamattina mi hanno dato un curriculum proprio al bar. Lo darò domani all'ingegnere. Ma non è che mi hanno beccato, mi hanno chiesto. E io dico, ci provo, vediamo. Ti conosco, so che cosa fai. Necessita un operatore come te, delle tue funzioni, provo a chiedere. Ho chiesto una volta, mi hanno detto, vediamo, conosciamolo. Ha fatto un colloquio, ha fatto delle prove e c'è già da parecchio. Non è nella mia squadra perché non l'ho voluto, giusto per far sì che non succeda che poi dicano che è il mio preferito, perché se deve prendere i colpi li prende lo stesso. E quindi non l'ho voluto proprio. Ed è nella zona diversa dalla mia. Un altro settore, io sul 6, questo è il settore 4. Ho chiesto, l'hanno preso, ma quelli sono tutti nipoti, parenti di assessori, sindaci, onorevoli, capito? Sono intoccabili, tant'è vero io non è che ci vado molto d'accordo, perché basta dice una cosa, io me lo dico a un padrino, tuo padrino lì, uno solo me l'ha detto una volta così, lo dice tuo padrino, no, vai diglielo, però no, vai diglielo adesso, perché ti prendi la roba e ti metti a casa, vai, girami le balle. Segnalazione, due lettere di richiamo, la terza fuori dai coglioni. Non so, mai fatto la cosa più furba, diciamo, tra virgolette, dai. Ha cercato di aiutare, però lontano, in modo da evitare le solite questioni che succedono sempre. Hai fatto la cosa più furba, dormi tranquillo. Ma ti metti a provocare, a farlo di gambe bazzino, ma già me la fatti di altro bazzino. Io non c'ho niente da guadagnare, faccio il mio lavoro, lo vuoi fare? No, anche io. Prendi la roba e vattene a casa, va. Ma io, e bene, adesso prendi la roba e vattene a casa, poi ci vedremo dove ci dobbiamo vedere e discutiamo di persona. Per il momento allontanati dal bianco, fuori dalle balle. L'ha fatto per due o tre volte, l'ha fatto con me una volta, l'ha fatto con un altro mio collega, che più o meno ha carattere mio, l'ha fatto col terzo, che ha un carattere molto, ma molto più brutto. Questi elementi, chiamiamoli elementi, dai, che si credono intoccabili perché la parentela con i soldi in tasca e dunque si credono chissà chi. Meglio così, almeno c'è qualcuno che si fa valere, e se no guai, andremo ancora più a rotoli. Vulca, da parte ti sei messo? Io non c'entro un mito, Gigi. Stava provando l'apparato, mi ha cambiato un altro e poi boh, sparito. Tornado. Il tornado c'è, e vabbè, basta, allora chiudiamo tutto. sono rientrato. Sai che mi avevo dimenticato di te, Fonfù? Vabbè, io ho fatto un attimo il colissimo e te ne porto Pacciani, quindi ho avuto 5 minuti. Pigliano per il culo e me la cava al culo, poi sono rientrato qua. Vabbè, dai, contento tu. Mi dato il gira, cioè il telefono a girare così e basta. Io. Tutto a posto. Diciamo di sì. Beh, io mi preparo per domani. Così riposo un pochettino le ossa, no? Ci sentiamo domani, buon proseguimento e niente, e buonanotte a tutti allora, dai, alle prossime allora. Ciao Antonè, poi ricordati che ci vediamo. prima che ti serve, che ti devo fare qualcosa io. No, no, volevo sapere un'informazione specifica, ma già la chiedo ad Antonio, capito? E come vuoi, non c'è nessun problema, poi il giorno che ci vediamo ti porto una bella bottigliotta di vino, buono. Ecco, le oro, io solo quello bevo. Se è buono, bevo solo quello, nient'altro. Va bene, no, è una cosa che riguarda te, ma ce la chiedo ad Antonio. Se no, ci sentiamo per telefono, non ti dico qua. Voglio vedere alcune cose. Va bene, dai, vattene a dormire, tanto che anche io so più. Spiego tutto, ma avrò la mano. Faccio un figlio Antonello, non ha più gara di quando imperare. Antonio, una buonanotte anche a te, a tutte e due, a Gigino se c'è ancora, e quelli che sono ascolto. Buonanotte a tutti, d'accordo, spero di dire ti dice. Via, ci sentiamo qua, già te la porto una bottiglia, io te la porto ad assaggiare, poi se ti piace te ne porto 5 litri, questo non è medica questo signore anzianotto, che ancora ce la fa a farlo, poi mi dai un tuo giudizio. Va bene, buonanotte, sogni d'oro. Per Pomponio, Pompon, ti tocca parlare da solo. Sì, accidenti, devo parlare da solo. Già ce l'hai, se si vuole qui parlo con lei, faccio ruffiano, chissà che stanotte ciucucciù, cosa ne so io. Ma domani arrivi di ciucucciù. Claudia, buonanotte. Ciao Gigi, ciucucciù sei tu. No, Antonio, sono franco, faccio solo. Sono messo di trattenuto un altro pochino, ma sono la sera alle 5 in radio, sono le 11, è ora anche di staccare un po' la spina. Voleva andare alle 10 e mezza a mettere a lavoro, manco vista in faccia. Dai, buonanotte a tutti, a domani. Buonanotte a tutti e a domani. Grazie Antonio, già ne parliamo di verticale. Ciao a tutti, buonanotte, ciao ciao. Io ti devo ricambiare per quella cosa, giustamente. Ehi, già ne parliamo di persona, ciao. Sogni d'oro anche a te, famiglia, ciao. Manca una buonanotte, ci sentiamo nei prossimi. Ok. Ti volevo dire, Antonio, devo essere aperta la partita che ci vuole parlare Simona. Ha detto che la stava cercando, guarda che non è entrata ancora. Ha detto che entrava verso le 5, gli ho detto. E invece poi alle 4 e mezzo mi hanno telefonato quella lì. E sono uscito dal centro storico a fare questo impianto. Allora mi trovo a parlare assieme, su 10, così si ripetono tutti e due. Adesso guardo, se non è a letto te la faccio venire qua direttamente. No, mica adesso, qui, si vuole a letto adesso. Domani, se andiamo di accendere un metro di 5. Non c'è problema, già la macchina accesa sul 10, se la c'è la 9-2, non c'è problema per quello. Ti devi chiamare adesso, no? Faccio quello e glielo dico. Domani alle 5 sul canale 10, anche io lo spengo, poi non ho fatto che lei lo accende ed è direttamente sul 10, perché non è tanto brava a manovrare. Ma se tocchino lei, poi non sa neanche dove c'è il figlio, ci penso io, va bene, comunque dico alle 5 di attaccare, poi chiama direttamente lei, va bene? D'accordo, sì, così si parlano tutti e due, io non c'è problema per quello. Andare in Elena. Luigi. Positivo, ma mettiamo in mezzo anche Antonella. Antonella? Chi è Antonella? C'è Antonella o Antonella? No, mettiamo in mezzo anche Antonella, così sono in tre. Lui, stasera, ha telefonato uno, lui. E gli ha detto tutta la notte, cazzo, 500 euro gli ha chiesto, ha detto cazzo, facciamo una cosa, ti giuro, guarda, gli ho detto, per 500 euro ci rimando anch'io stanotte, gli ho detto. È positivo, no, ma io faccio la parte di Antonella, la voce, capito, faccio Antonella io. Ah, no, io c'è bisogno di fare la parte di Antonella, siamo tutti maschietti qui. arrivo, dai, io me ne vado forse a Nanna, cosa vuoi dire? Me ne vado a Nanna. Ciao Pompo, ciao Antone, buonanotte a tutti e due. E se c'è qualcuno in ascolto, io me ne vado a Nanna. E ciao, buon lavoro. Ci sentiamo allora, stavi bene. Buon quesiti, buon tutto. Oggi ci ciao, buonanotte. Attenzione 10.